notte che grida. E sono così stanco che non potrei sentire. E penso solamente al sole che cadendo trascina la mia mente in questo ritmo lento. Ma anche tu stai andando via e rimango che a pensare. Anche tu vuoi volar via e rimango a ricordare. Anche tu stai andando via e rimango che a pensare. Anche tu vuoi volar via e rimango a ricordare. Il vento è una sfida, il sole mai è sotto, la luce che mi acceca.